Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Anche questa settimana si è parlato e parleremo anche noi molto di Grecia, di debiti, di questioni legate proprio all'economia e alla finanza. Però inizio da un articolo uscito sulla Süddeutsche Zeitung, che è un articolo un quotidiano tedesco abbastanza di centrosinistra, ma non esageratamente schierato. Però faccio sempre il confronto invece con la Frankfurt Allgemeine Zeitung, che come sempre vi dico, oltre a essere molto austera e anche tendenzialmente di centrodestra, quindi diciamo che la Süddeutsche Zeitung è fisiologicamente ben disposta verso un governo di centrosinistra come quello del premier Renzi. E però quello che ha fatto questo quotidiano è un bilancio di un primo anno da premier, concludendo che, se non altro, sicuramente l'impressione all'interno e all'esterno è che questo premier testuale che corre è veramente una boccata d'aria per un paese che all'interno e all'esterno, il nostro, è sempre stato considerato, comunque almeno negli ultimi anni, bloccato. E per quanto riguarda le questioni europee, la Süddeutsche Zeitung ricorda che Renzi ha fatto il possibile per smuovere un po' le acque, anche perché c'era stato quel semestre di presidenza europea toccato appunto all'Italia in concomitanza con questo primo anno di premiership. E però adesso il premier Renzi sembra essere orientato proprio verso questa soluzione, scrive ancora il quotidiano tedesco. Quello che non deve succedere è che la Grecia esca dall'euro, la famosa Grexit. Ma vediamo un altro quotidiano, questa volta Le Monde, e parliamo ancora di Grecia. Secondo il ministro delle finanze francese Michel Sapin, che ha concesso un'intervista a Le Monde, non c'è poi così tanto tempo per trovare questo famoso accordo con la Grecia. E però, come del resto sembra proprio succedere visto i segnali lanciati da Angela Merkel giovedì e ieri venerdì, quello che serve è che ciascuno faccia un piccolo sforzo. Quindi, al di là delle dichiarazioni di principio fatte all'indomani delle famose elezioni greche del 25 gennaio, che hanno sancito la vittoria di Tsipras, ecco, al di là di quelle dichiarazioni molto forti da una parte di Tsipras, che doveva rendere conto, cercare di sembrare di essere coerente con le promesse fatte in campagna elettorale, e dall'altra parte quelle della Germania e della Commissione europea, ecco che poi se ognuno si ammorbiderà un po', si potrebbe uscire da questo impasse. Ed è quello che appunto Le Monde auspica, anche attraverso le parole di Michel Sapin, perché quello anche in questo caso che viene sottolineato è che va scongiurato il pericolo della famigerata Grexit, l'uscita della Grecia dall'euro e non sia mai anche dall'Unione Europea. Passiamo a un altro argomento che però riguarda in realtà un po' tutto un settore importante per l'industria europea, che è quello automobilistico, partendo da un'intervista che Sergio Marchionne, amministratore legato di FCA, Financial Chrysler Automobiles, cioè sapete la società che è risultata la fusione di Fiat e Chrysler, ha concesso un'intervista a Financial Times e ha spiegato che anche le case automobilistiche, in particolare quelle europee, che si sono molto orgogliose della loro, anche giustamente, della loro indipendenza, della loro storia in un mercato globalizzato, dovranno comunque considerare le fusioni, quelle che appunto Marchionne chiama le case automobilistiche riluttanti. Tra l'altro è un'intervista che ha poi, diciamo, portato bene alla Fiat, perché nei giorni successivi il titolo è molto salito in borsa. Financial Times ha poi affidato anche un commento a un banchiere della Citi, che ha confermato che quelle di Marchionne non è solo wishful thinking. Secondo questo banchiere, FCA è pronta a una fusione con uno dei principali costruttori in Europa, ma forse anche uno americano o asiatico, che le permetterebbe davvero di competere a livello globale e tagliare i costi. Naturalmente, se parliamo di Asia, pensiamo soprattutto a Tata Motors, che è il colosso indiano. Un altro interessante articolo pubblicato da Financial Times ci riporta le questioni strettamente europee e sulle riforme, sull'austerity. In questo caso è Tony Blair, l'ex premier britannico, che sicuramente degli ultimi premier britannici è stato uno dei più europeisti, nonostante, lo ricordiamo, non abbia mai proposto che la Gran Bretagna entrasse nell'euro. La Gran Bretagna è fiera di avere aver mantenuto la sua moneta, la sterlina. Ecco, però Tony Blair ha scritto un editoriale, una sorta di lettera aperta a Financial Times, dicendo che dal suo punto di vista, sapete che Tony Blair da quando non è più premier è di fatto un consulente di tantissimi paesi, economico e politico, e a volte anche criticato per questo, ma comunque è consulente di moltissimi paesi in giro per il mondo, non solo europei. Ecco, secondo Tony Blair, chiedere ai paesi europei di realizzare le riforme necessarie a uscire dalla crisi agitando lo spettro dell'austerity non è la scelta giusta. Secondo Tony Blair, che ha scritto questo articolo intitolato I due falsi sentieri per l'Europa e la terza via, secondo Tony Blair appunto la soluzione per uscire dal dilemma Grecia è crescita e riforme. Insomma, non particolarmente originale se volete, però credo che sia importante che in questo momento chiunque si unisca a questo coro appunto di persone che chiedono sì crescita e austerity, ma anche uno sforzo a tutti perché nessuno abbia posizioni troppo dure. Insomma, chiunque, se questo coro si rafforza e quindi si indeboliscono appunto le posizioni troppo estremiste, credo sia un bene per tutti. A proposito di Europa e di come potrebbe davvero essere, se l'Europa realizza le riforme, potrebbe non esserci affatto quel declino che invece si dice dell'Unione Europea, di cui hanno parlato in tanti anche le Economist nei mesi scorsi, dell'economia europea e della moneta unica dell'euro, che è un po' schiacciata tra i due giganti, cioè il dollaro da una parte e lo yen cinese dall'altra. Ecco, secondo il New York Times non solo l'Europa potrebbe avere davvero un ruolo importante nel mondo dal punto di vista economico ma anche politico, ma potrebbe, il New York Times addirittura propone una persona che è Angela Merkel. Naturalmente lo spunto è il ruolo che Angela Merkel sta svolgendo sia nelle negoziazioni con la Grecia sia in quelle con la Russia di Putin per scongiurare che la crisi ucraina degeneri ulteriormente oltre quella che c'è già, cioè una guerra civile, veramente in una guerra che coinvolga un po' in stile guerra fredda, che veda contrapposti Occidente e Oriente, anche se naturalmente gli schieramenti rispetto alla guerra fredda tradizionale sono un po' cambiati. Secondo il New York Times, Cameron non va bene per questo ruolo perché è troppo arrabbiato con l'Unione Europea e la Russia, François Hollande è troppo impegnato nel tenere insieme la Francia e resta quindi la cancelliera tedesca. Per quanto riguarda Federica Mogherini, il New York Times riconosce il suo ruolo, però ricorda che finché non esiste una vera e propria politica estera europea non può essere Federica Mogherini a ricoprire, anche per forse mancanza di esperienza, questo ruolo di nuovo Kennedy, addirittura questo scrive il New York Times. Un articolo molto interessante sull'Europa a rischio, soprattutto sull'integrazione europea a rischio, perché sappiamo, insomma, noi siamo veramente un collage di culture diverse, oltre che di monete, di geografie e di società diverse. Le Monde Diplomatique si chiede, ma l'integrazione europea è a rischio? L'Unione Europea potrebbe fare la fine della Jugoslavia, che sappiamo si è divisa in tanti stati, o addirittura dell'Unione Sovietica, che sappiamo si è divisa in da una parte CSI e poi tutti gli stati che invece hanno conquistato l'indipendenza, e l'Ucraina del resto è uno di... dà l'idea di come questo processo di disintegrazione sia ancora in atto. Ecco, l'articolo, che è molto lungo, non riesco a leggervelo, ma lo trovate su www.presseurope.eu, che sapete è il sito a cui io faccio molto riferimento perché lo trovo fatto molto bene, con delle ottime traduzioni e che ci aiuta in questa rassegna stampa europea. Ecco, questo articolo è anche corredato da una vignetta molto bella che, vista da lontano, sembra la nostra bandiera europea, che sapete è fatta di tante stelline gialle su sfondo azzurro. In questo caso al posto delle stelline ci sono persone tutte sedute di schiena, che però si guardano in qualche modo in cagnesco, girando solo parzialmente le spalle, quindi siamo tutti, come se il senso è, siamo sì seduti tutti allo stesso tavolo ma non ci guardiamo davvero negli occhi, non ci diciamo davvero la verità, non ci fidiamo davvero gli uni degli altri. Vi ricorderete forse che settimana scorsa abbiamo citato il problema dei mutui che i polacchi, circa i due terzi dei polacchi, hanno sottoscritto in franchi svizzeri, e che quindi con lo sganciamento del franco svizzero deciso il 15 gennaio dalla Banca Nazionale Svizzera, lo sganciamento del franco dall'euro, hanno perso molto. Ecco, i giornali polacchi tornano a occuparsi di questioni strettamente europee perché auspicano che quello che sta avvenendo, i negoziati che stanno seguendo il desiderio della Grecia di rinegoziare gli accordi per il debito, potrebbero essere importanti pesanti anche per l'Europa. Da una parte però Gazeta Wyborska paventa un po' il pericolo che sì, ci sia un grande potenziale rivoluzionario in Tsipras, nel suo partito Siriza, in questo risultato elettorale, ma questa rivoluzione, questi protagonisti della desiderata svolta dell'atteggiamento dell'Unione Europea verso la Grecia o in futuro di altri paesi in difficoltà rischiano di essere un po' degli impotenti rivoluzionari se appunto non si raggiungerà quell'accordo che, come abbiamo detto prima all'inizio, tutti auspicano, se ciascuno cercherà di fare dei piccoli compromessi. Era purtroppo l'ultima segnalazione che riesco a farvi per questa settimana. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.